It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli aleggia ovunque l'incubo della morte, Kappa e Drago riflettono amaramente sui concetti fondamentali. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Ma no, Drago, ma non puoi andare in giro con la camicia col colletto alla coreana, non si può. Ma come non si può? Perché? Non si può, per tanti motivi. Allora, sì, il più banale, non è più di moda. Drago, sono anni che non se ne vedono più in giro, davvero, sì. Dove l'hai tirata fuori? Fashion victim. Vuoi il motivo più profondo? I coreani sono un popolo da cui guardarsi. E la Madonna adesso, no, la Madonna. Anche il colletto di una camicia diventa geopolitica. Geopolitica. Ma che stress, ma come si fa? Allora, che ne so, se metti una dolce vita o un dolce vita nero o nera, cos'è, troppo francese, i francesi sono sciovinisti e dunque niente dolce vite o dolci vite o dolce vita o dolci vita. La dolce vita, la dolce vita. This is Russell Mail from Spark. This is Ron Mail from Spark. And you're listening to La fabbrica di polli. Convinciti, ogni singolo dettaglio del nostro look ha anche una valenza geopolitica. I tempi che corrono sono questi, e quindi ti devi adattare. Adattati, lascia perdere. Sì, adattati. Ma allora scusami, quelli che vanno in giro con i pantaloni o le giacche militari, ne vedi tanti, no? Di giovani, tutti pacifisti, no global, centri sociali, che però hanno la giacca mimetica dell'esercito tedesco occidentale. Allora? E allora cosa? Ti sembra coerente? Pacifisti? L'esercito tedesco dal 46 all'anno scorso è stato l'esercito più pacifico della storia. È giusto, Drago, è coerente. L'esercito tedesco era in castigo e non ha fatto niente di niente per quasi 60 anni. Vabbè, quindi e allora cosa devo fare? Mi tolgo la camicia col colletto alla coreana, anche se è coreana del nord, e mi infilo una mimetica della Wehrmacht. È questo che vuoi? Ma quale Wehrmacht? La Wehrmacht, ma l'esercito. Non fare confusione. Le nozioni di primo di classe. Per chi non lo sa, la Wehrmacht era l'esercito regolare tedesco nel periodo nazista, dal 1936 al 1945. La parola Wehr significa difesa, diga, sbarramento. La parola Macht invece indica una forza. Wehrmacht dunque significava difensiva forza. Forza difensiva anche. Sì, va bene, però io penso che sia sempre meglio una camicia civile col colletto alla coreana piuttosto di una giacca militare tedesca di un esercito pacifico. Cioè, la dicotomia è civile-militare. Ma lascia stare le dicotomie, poi tu stai bene vestito militare, tu l'hai anche fatto il militare. Certo che l'ho fatto, nei granatieri di Sardegna. A me le guardie! A me, vedi? Questo era il motto della nostra, del nostro reggimento. Vabbè, io non so di cosa A me le guardie, erano le guardie che... No, era il re che diceva a me le guardie quando doveva farsi difendere. A lei le guardie. E c'erano i granatieri che... No, a lei, a me, a moi. Poi era, il re era francese, francofono. Tu ti esalti, parliamo di esercito, ti esalti. Sì, insomma. Ma Drago, ma hai nostalgia di quei belli alzabandiera alle 7 del mattino, alla caserma guardie? Alzabandiera, vorrei dire. Beh, quei belli alzabandiera, Drago, chi se li scorda più? Già, adesso poi che non si alza più niente, neanche la bandiera. Un altro po' e comincia il caldo. Comincia il caldo e io non ho più voglia di stare qui a cucinare dentro un camion, sotto l'imbocco lurido di questa tangenziale. È sempre così. Poi a me non mi piace farmi vedere sempre sudato, sfatto, abbrustolito. È l'unica cosa che ho per me, il calore. Quando tutti battono i piedi sul ghiaccio e buttano fumo dalla bocca e vengono qui per cercare un riparo dall'inverno, dentro a questa capanna di neon e salamella. È l'unica cosa che ci rende diversi, a me e al mio chiosco. Col caldo poi arrivano pure in tanti, più che in inverno. Ma si fermano solo un attimo, non guardano, non desiderano. Non ringraziano il mio chiosco per averli accolti, riparati. E poi si mettono pure a parlare di Costa Smeralda, di Last Minute, di Costa to Costa. E così mi escludono ancora di più. Ma come? Io sto al di qua della ghigliottina delle ferie. Non riesco a pianificare le vacanze. Non sono capace di guardare più in là delle mie notti di lavoro. Caccia fa. Sarà per questo che l'unico progetto che ho finito in vita mia è stato comprare un camion, piombarlo, per farne un chiosco. Ma che non si muove mai. Un camion che non si muove mai. Solo in agosto, quando in giro non c'è sta più nessuno, io divento di nuovo finalmente lo sceicco re di questo posto, rispettato e riverito da anime perse che vengono per cercare un riparo dall'unico vero freddo che si può provare in estate, quello che proviamo noi che siamo soli. And the animals suffer. Io lavoro di notte per stare da solo in silenzio. Lavoro la notte e mentre lavoro io penso che meno gente vedo e meglio sto. Sarò misantropo, lo so, ma al pop del giorno preferisco il sol, perché in a moonlight I trust, in a moonlight I say, please don't go, don't stay. La misantropia è davvero la risposta alle ansie del ventunesimo secolo? Ma... lasciatemi salire su questa cassetta e voglio ripetere la domanda. Dai, ripeti la domanda. La misantropia è davvero la risposta alle ansie del ventunesimo secolo? Stai bene sulla cassetta. Ma perché i polli non mi ascoltano? Io non capisco. Io sono per la misapollia. Eccolo qui. Sei per la? La misapollia. Sì, che poi è come la misantropia, solo che si applica ai polli, no? O meglio, anche ai polli. Ah, misapollia. Le regole della misapollia. Misapollia. Non bisogna dare confidenza a nessuno. Bisogna starsene da soli, senza parlare a nessuno e senza avere amici. No, ma Pollo, così non fai altro che giustificare, che assecondare, quasi coccolare le tue fobie sociali. Devi reagire, non va bene essere così ostile. Beh, vabbè, ma io sono ostile per col becco. Sì, cos'è? Una questione evoluzionistica. Come, sì. Tu, avendo il becco, sei aggressivo. Se no cosa me ne faccio del becco? Lo uso solo per tirar su i chicchi di grano dalla terra. Ad esempio, no? Lo tengo inoperoso. Ma no, vabbè. Il becco serve per dare le beccate, Io le beccate le do, Sì, ma scusa, a chi le dai? Non so. A tutti quelli che mi passano a te. Vabbè, ma abbiamo capito, ma se tu te ne stessi tranquillo, scusa, ogni tanto, senza voler fare o dare beccate a tutti i costi o far del male, forse ti passerebbero le fobie sociali. Ma io ho il becco che comanda, Vabbè, ma come è il becco che ti domina? Così come certi uomini, certe donne che sono, come dire, governati e governate dal... Sì, cosa abbiamo, si capito, dire, drago, no? Abbiamo capito, Ok. Sì, drago, abbiamo capito. Okay. Abbiamo capito. È il becco che comanda, vedi? È il becco che spinge a beccare. Adesso poi, che a Sanremo ha vinto uno che vorrebbe avere il becco. Io però cosa posso dire? Lui vorrebbe avere il becco e io il becco ce l'ho, Quindi a Sanremo dovevo vincere io. Vabbè, però dai. Per un pollo raffinato come te, un pollo krautrock, che senso avrebbe vincere Sanremo? Perché? I Kraftwerk sono andati a Disco Ring e io non posso andare a Sanremo. Che cosa succederà adesso? Niente, all'apparenza, ma in realtà è in agguato una grande sorpresa. Quale? Lo scoprirete solo sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo misantropico allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non nuoce, quasi mai. Good night, ladies and gentlemen, good night. Bar Lumen.